Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Zone rosse, i PM di Bergamo a Roma per ascoltare Conte, Speranza e Lamorgese. Fase 3, da lunedì aprono cinema, teatri e centri estivi, debutto nazionale per la app Immuni, ancora attesa per calcetto e discoteche. Lavoro, 100.000 occupati in meno nel primo trimestre, secondo l'Istat. Approvato ieri il Family Act dall'assegno universale per i figli in base al reddito ai maggiori congedi parentali, un disegno di legge per sostenere la famiglia. 7 arresti a Roma, presunti terroristi di una cellula anarco-insurrezionalista. Torna anche il calcio, stasera con la semifinale di Coppa Italia, Juve-Milan, si interrompe il digiuno. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Oggi è il giorno nel quale i magistrati, come sapete, ascoltano, in quanto persone informate dei fatti, il Presidente del Consiglio Conte, ma anche i ministri Speranza e Lamorgese nel filone dell'inchiesta che riguarda eventuali responsabilità sulla mancata istituzione della zona rossa nel bergamasco. Novità anche per la fase 3, le ha annunciate ieri sera Conte, via a cinema, teatri, centri estivi e anche alle competizioni sportive. Stasera, dopo tanto tempo, si interrompe il digiuno del calcio che torna con la semifinale di Coppa Italia. Ne parleremo più avanti, ma adesso cominciamo con le inchieste. Non mi sento preoccupato di poter finire indagato e rifarei tutto perché ho agito secondo scienza e coscienza. Così il Premier Conte ieri ad alcuni cronisti, parole che probabilmente avrà ripetuto anche al pool di magistrati bergamaschi guidato dal procuratore aggiunto Maria Cristina Rota, è arrivato questa mattina a Palazzo Chigi. Dopo il Premier, che viene sentito come persona informata dei fatti, anche i ministri della Salute Roberto Speranza e dell'Interno Luciana Lamorgese. L'inchiesta, quella sulla mancata istituzione della zona rossa d'Alzano Lombardo e Nembro nel bergamasco, i PM vogliono chiarire il ruolo del governo, che cosa accade tra il 3 e il 7 marzo, quando si decise di inviare le forze dell'ordine e l'esercito nella bergamasca, ma poi la zona rossa non fu decretata, verificare se la scelta di non aver isolato i due comuni abbia fatto aumentare i contagi. Concluse le audizioni romane, i PM bergamaschi, che sulla vicenda hanno già sentito tra gli altri il presidente della Lombardia Attilio Fontana e l'assessore al welfare Giulio Gallera, tireranno le fila per stabilire se si sia trattato di atti da inquadrare come scelte politiche o se ci siano meno responsabilità penali. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Polemiche innescate anche dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori. In un tweet si è lamentato che in regione, da quando abbiamo segnalato che i decessi reali erano molti di più di quelli ufficiali, hanno secretato i dati per province. Immediata è stata la replica del Pirellone, secondo cui la denuncia di Gori non corrisponde al vero perché l'informazione, dicono dalla regione Lombardia, non è cambiata e continua a essere la stessa. E dicevamo, ieri sera è stato firmato un nuovo DPCM sulla fase 3, riprendono le competizioni sportive come il calcio. Per lo sport di contatto non professionistico bisognerà invece aspettare ancora fino al 21 giugno, via libera anche a centri estivi per i bambini, spettacoli di cinema e teatro, con posti però contingentati. Sentiamo. Lunedì riapriranno le aree giochi e i centri estivi anche per i bambini da 0 a 3 anni e le sale scommesse. Via libera anche per cinema, teatri e spettacoli all'aperto, con 200 spettatori al chiuso e fino a 1000 all'aperto. I corsi professionali inoltre potranno essere svolti in presenza. I viaggi all'estero riprenderanno gradualmente. Se le crociere restano sospese fino al 14 luglio, oltre alla ripresa dei voli nell'area Schengen, da martedì si potrà andare anche in Albania e nei Balcani. Per un mese, fino al 14 luglio invece, ancora stop per discoteche, anche all'aperto, fiere e congressi. Nessun via libera anche per il calcetto e gli altri sport da contatto amatoriali, la cui ripresa, inizialmente prevista, slitta ora al 25 giugno, compatibilmente alla situazione epidemiologica. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E al via da domenica 14 giugno anche l'orario estivo di Trenitalia, con l'obiettivo, fa sapere la compagnia, di rilanciare il turismo nazionale nel pieno rispetto delle norme per il distanziamento delle persone. E poi, con l'aumento dei voli dei passeggeri, riaprirà anche però dal lunedì 15 giugno il Terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa. Approvato ieri dal Consiglio dei Ministri anche il Family Act, misure a sostegno delle famiglie. Una riforma delle politiche per la famiglia che punta sulla parità di genere anche all'interno del nucleo familiare per incentivare il lavoro femminile soprattutto al sud, riordinando la normativa sui congedi parentali con almeno 10 giorni di congedo per i neopapà, ma anche con un assegno universale mensile per ogni figlio secondo gli indicatori ISEE, detrazioni fiscali per le spese dedicate all'istruzione, aiuti alle mamme lavoratrici. Sono alcuni degli interventi previsti dal Family Act varato dal Consiglio dei Ministri, ma i tempi per i decreti attuativi, ricordiamolo, sono lunghi: 12 mesi per l'assegno universale e 24 mesi per il riordino dei congedi, gli incentivi al lavoro femminile e gli aiuti per la formazione. La delega prevede un periodo minimo non inferiore ai 2 mesi di congedo parentale non cedibile all'altro genitore per ciascun figlio e un congedo obbligatorio non inferiore a 10 giorni per il padre lavoratore nei primi mesi di nascita del figlio, a prescindere dallo stato civile o di famiglia. E per andare ai colloqui con i professori è previsto un permesso retribuito di almeno 5 ore nell'arco di un anno scolastico. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Duro attacco del presidente della Liguria Giovanni Toti al governo sul tema delle autostrade. La giunta della regione Liguria oggi pomeriggio firmerà un atto di messa in mora del Ministero dei Trasporti, ha detto Toti, per chiedere i danni provocati dai problemi della rete autostradale. È in corso, ha aggiunto Toti, un doloso piano scriteriato per rimediare a decenni di inerzia in una sola mensilità alla fine del lockdown. Il riferimento ai controlli in corso e al piano cantieri messo in atto dal Ministero per la manutenzione, in particolare di viadotti e gallerie. Intanto il governo si prepara agli stati generali, accantonate le polemiche sull'annuncio di questa iniziativa fatto da Conte senza consultare gli alleati. Alla vigilia degli stati generali dell'economia, il presidente del Consiglio Conte assicura di avere un chiaro percorso da seguire nei prossimi mesi. In un colloquio con diversi quotidiani, il premier spiega di avere un piano per la ripartenza del paese, che prima però dovrà essere presentato alle parti sociali e alle imprese. Tra i punti anticipati da Conte ci sono investimenti sulla fibra ottica, misure per la semplificazione degli appalti, incentivi per i pagamenti digitali e per la digitalizzazione delle imprese. Nella maggioranza intanto va avanti il confronto sul piano per la ripartenza. Il Movimento 5 Stelle chiede di indicare la direzione del paese per i prossimi 10 anni. Partito Democratico e Italia Viva chiedono invece concretezza, mentre il centrodestra, dopo la decisione di non partecipare agli stati generali, ribadisce di essere pronto al confronto con il governo solo in Parlamento e continua a lavorare alle candidature per le prossime regionali. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora i dati sull'occupazione in Italia, fotografati dall'Istat: 100.000 posti di lavoro in meno nel primo trimestre dell'anno. Ancora un trimestre in chiaroscuro per il mercato del lavoro italiano. Il numero di persone occupate diminuisce infatti di 101.000 unità rispetto al trimestre precedente. Nello stesso tempo la disoccupazione, sempre secondo l'Istat, cala a 9,4%. L'Istituto di Statistica sottolinea che per il 12° trimestre consecutivo prosegue a ritmi molto più sostenuti la riduzione del numero dei disoccupati. E intanto aumenta, sempre a ritmo sostenuto, il numero degli inattivi. Dopo la diminuzione nei 2 precedenti trimestri, segnano più 290.000 persone in un anno. Sul fronte occupazione invece, alla lieve crescita dei dipendenti a tempo indeterminato si contrappone la rilevante diminuzione di quelli a termine e quella meno accentuata degli indipendenti, e il tasso di occupazione è pari al 58,8%, in diminuzione di 0,2 punti percentuali rispetto al quarto trimestre 2019, sia al nord sia nel mezzogiorno, stabile nel centro Italia. Tutte dinamiche che, precisa l'Istituto di Statistica, risentono a partire dall'ultima settimana di febbraio delle forti perturbazioni indotte dall'emergenza sanitaria. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E potrà colpire il fatto che una delle nazioni che ha adottato un lockdown meno rigido, come per esempio la Gran Bretagna, è il paese nel quale adesso si registra invece una flessione molto più marcata dell'economia, meno 20% il calo del PIL. Lo shock coronavirus sull'economia britannica si fa sentire come un tuono. Il PIL del Regno Unito ha registrato la contrazione maggiore della storia, pari al 20,4%, che rispecchia il primo mese di lockdown in aprile. L'Ufficio di Statistica Nazionale l'ha definita una caduta storica che ha avuto un impatto di 3 volte superiore alla crisi economica del 2008-2009 e ha colpito tutti i settori produttivi, soprattutto servizi, manufatturiero e costruzioni, con quasi 9 milioni di lavoratori in cassa integrazione. Nei 3 mesi fino alla fine di aprile la contrazione è stata del 10,4% rispetto al trimestre precedente, mentre su base annua il tonfo raggiunge il meno 24,5%. Mentre sull'isola infuriano le polemiche sui ritardi del governo Johnson nell'introdurre il lockdown, i dati economici confermano che la chiusura di uffici ed imprese ha provocato un record 10 volte peggiore rispetto alle più ripide contrazioni pre-Covid. E nonostante la riapertura dei negozi il prossimo lunedì, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico stima che l'economia britannica avrà il tracollo maggiore tra i paesi sviluppati. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra. Con la cronaca torniamo in Italia. Una persona è morta nell'incendio divampato all'alba di oggi all'interno di una baracca che si trova nel ghetto di Borgo Mezzanone, insediamento abusivo sorto nel Foggiano. Un bracciante non ancora identificato, ma sicuramente di origini africane, è morto carbonizzato nella sua baracca nel ghetto di Borgo Mezzanone, l'insediamento abusivo sorto nel Foggiano. In 1 anno e mezzo è la 4ª vittima registrata nel ghetto a seguito di incendi che divampano periodicamente nella baraccopoli. I lavoratori dell'area hanno convocato un'assemblea per oggi pomeriggio. È morto invece suicida, impiccato a una corda attaccata in cima alle scale dell'alloggio in cui abitava la Tina, Yoban Singh. Bracciante indiano di 25 anni, l'ennesimo sfruttato nelle campagne pontine che non ha retto al peso della solitudine e della fatica. Guadagnava 500 euro al mese per 10 ore nei campi. Aveva preso informazioni per essere regolarizzato, ma il datore di lavoro aveva detto di no. È il 13° suicidio di un bracciante Sikh in 3 anni. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Cassazione interviene ancora sul processo Mondo di Mezzo a Roma, senza negare che sul territorio di Roma possano esistere fenomeni criminali mafiosi, sostiene la Cassazione in una nota che anticipa le motivazioni della sentenza. I risultati probatori, scrive la Cassazione, hanno portato a negare l'esistenza di una associazione a delinquere di stampo mafioso. Quel che è stato appurato, scrivono i giudici, è un quadro complessivo di un sistema gravemente inquinato, non tanto dalla paura ma dal mercimonio della pubblica funzione. E sempre a Roma avevano costituito una cellula terroristica anarco-insurrezionalista, per questo 7 persone sono state arrestate. Avevano costituito una cellula eversiva anarco-insurrezionalista che aveva come base un centro sociale romano, il ben ci venga occupato, e che puntava a riorganizzare il movimento in chiave transnazionale. 7 le persone arrestate dai carabinieri del ROS con le accuse di terrorismo ed eversione, attentati con ordigni esplosivi e altri reati. Tra loro anche una donna, mentre 2 degli indagati nell'ambito dell'operazione Bialystok, sui quali la Procura di Roma aveva emesso un mandato di arresto europeo, sono stati individuati in Francia e in Spagna. Dalle indagini sono inoltre emersi i contatti con gruppi anarchici greci, cileni e tedeschi. La nuova cellula, riconducibile alla FAI, la Federazione Anarchica Informale, aveva anche prodotto una serie di documenti per indicare ai militanti programma eversivo, strategie e obiettivi da colpire, tra cui banche, caserme dei carabinieri e grandi aziende. Uno degli arrestati sarebbe anche tra i responsabili dell'attentato esplosivo del 2017, rivendicato dalla FAI, ad una stazione dei carabinieri della capitale che provocò ingenti danni. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E siamo allo sport. In chiusura, Formula 1, ai Gran Premi d'Australia, Francia e Monaco già cancellati, si aggiungono ora anche quelli di Giappone, Singapore e Azerbaigian, che non si disputeranno nella stagione 2020. Ritorno invece questa sera per il calcio in Italia con la semifinale di Coppa Italia Juve-Milan. Appunto, si interrompe il lungo digiuno del calcio, ne parleremo ancora nella seconda parte di Effetto Giorno. Adesso facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco, e nel giorno in cui i magistrati ascoltano Conte come persona informata dei fatti sarà nostro ospite l'avvocato dell'associazione Noi Denunceremo, che sta raccogliendo storie e testimonianze e soprattutto sta depositando denunce in procura sulla zona rossa, sulla mancanza di un piano pandemico, ma anche sulla gestione delle RSA. E poi ve lo anticipo, alle 13.30 fase 3 riaperture, c'è un sondaggio di YouGov per Radio 24, un panel globale, internazionale, sono state sentite persone di tutto il mondo. Ebbene, gli italiani risultano tra i più ottimisti sulla possibilità di lasciarsi alle spalle l'emergenza Covid. A tra poco. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi, zone rosse, i PM di Bergamo a Roma per ascoltare Conte, Speranza e Lamorgese. 50 le denunce già depositate dal comitato dei parenti delle vittime, noi denunceremo, chiediamo verità, ne parliamo tra poco con l'avvocato Locati. Fase 3, da lunedì aprono cinema, teatri e centri estivi, via anche al calcio, debutto nazionale per la app Immuni. Lavoro meno 100.000 occupati nel primo trimestre dell'anno secondo l'Istat. Stasera con la semifinale di Coppa Italia dunque si interrompe il digiuno del calcio, Juve-Milan in campo alle 21. Minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Avete appena sentito i titoli di oggi e dunque oggi è la giornata nella quale i magistrati che vengono da Bergamo ascolteranno il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Vi abbiamo raccontato la cronaca questa mattina di questo evento, poi sarà la volta anche del Ministro Speranza e del Ministro Lamorgese. È con noi l'avvocato Consuelo Locati, che è coordinatrice del team composto da 6 legali che assiste il comitato Noi Denunceremo. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie a voi. Grazie a lei per aver accettato il nostro invito. Allora, questo comitato nasce su Facebook, se abbiamo capito bene, una pagina che poi diventa un vero e proprio comitato, una pagina dove si raccolgono intanto gli sfoghi delle persone, i racconti, le testimonianze dei parenti scomparsi, tante le questioni sollevate, si parla di come sono state gestite le RSA, si parla e poi piano piano montano le denunce anche su come sulla mancanza di un piano pandemico nazionale, sulla mancata decisione delle zone rosse, che è il tema di cui appunto oggi, su cui oggi viene ascoltato anche addirittura il Presidente del Consiglio Conte, ma sono state ascoltate tutte le autorità regionali e anche il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro eccetera. Intanto, prima di arrivare alle denunce, avvocato Locati, le chiederei come nasce questa associazione, questo gruppo, questo comitato di parenti delle vittime. Beh, di fatto questo comitato nasce dall'esigenza che è stata rappresentata dalle persone iscritte al gruppo Facebook originario di poter agire e investire la magistratura di fatto di un'indagine volta a chiarire le motivazioni di quello che c'è stato e che ha portato poi alla morte di migliaia di persone. Gente chiede che sia fatta chiarezza, chiede che sia fatta giustizia. È un comitato di fatto di persone che chiedono conto alla regione, allo Stato, insomma a qualsiasi autorità deputata a tutelare la propria salute, chiedono conto delle azioni o delle omissioni poste in essere. Si tratta di un gruppo che nasce nella zona di Bergamo, da persone della zona di Bergamo, però se ho capito bene poi le adesioni sono state tantissime sì, anche da fuori regione. Tantissime anche da fuori regione, sì. Abbiamo anche richieste dalla Sicilia, dalla Puglia, dal Lazio, è molto vasto, è proprio una richiesta fatta dai cittadini, non solo lombardi ma dell'Italia. Ecco, tra i punti che voi sollevate, lo ricordavo prima, ci sono sicuramente la questione, famosa questione delle zone rosse, ma non solo, c'è la mancata attuazione di un piano pandemico che prevedeva cose precise, un piano tra l'altro vecchio dell'Italia che risale al 2006, non era stato aggiornato, c'è la questione dei dispositivi di protezione dei medici che all'inizio scarseggiavano. Io le vorrei chiedere, le prime denunce che state depositando, su quali aspetti tra tutti questi si stanno concentrando, che tipo di denunce sono? Ma per la verità le denunce che sono state depositate coprono tutti gli aspetti di cui lei ha parlato, perché si parla di decessi nelle RSA, si parla di decessi nelle case, nelle abitazioni private e si parla di decessi negli ospedali. Di fatto, soprattutto per quanto riguarda Regione Lombardia, vengono tutte riportate a quello che può essere e che le persone dicono, chiedono che sia alla mancata chiusura dell'ospedale di Alzano Lombardo e alla mancata istituzione di una zona rossa. Ci sono diversi richiami normativi a suffragio e a sostegno di questi fatti che vengono poi denunciati. Ecco, su questo aspetto in particolare io le vorrei chiedere, immagino che non sia facile rispondere, perché voi fate domande e chiedete delle risposte naturalmente, sì. Quindi non siete voi che dovete dare le risposte, ma su questo aspetto specifico della mancanza, visto che è un aspetto mi sembra molto importante nel quadro, sì, delle denunce che state portando avanti, cioè della mancata chiusura dell'ospedale di Alzano, che era stato, c'erano stati molti casi, è stato chiuso e riaperto diciamo, quasi nell'arco della stessa giornata, e anche sulla mancata istituzione della zona rossa, a quali responsabilità voi individuate, a chi attribuite maggiore responsabilità, perché sappiamo qua che c'è un balletto tra brutto tra l'altro tra il governo, sì, le regioni, poi si può risalire ancora più in alto perché c'è tutto un tema di linee guida che arrivavano, sì, anche dall'OMS. Ma guardi, l'ospedale di Alzano, vorrei semplicemente precisare, è stato chiuso e riaperto in 2 ore, quindi nemmeno nella stessa giornata, ma solo in 2 ore. Per quanto riguarda il resto, guardi, noi ci siamo limitati a fare una ricostruzione ripartendo anche da quello che Regione Lombardia propone a sua discolpa, che è una direttiva dell'8 marzo in cui, insomma, che era stata mandata dal governo, in cui diceva che alcune materie in ambito di sicurezza rimanevano di competenza del governo. Noi siamo partiti da lì e poi abbiamo fatto un'analisi sostenendo che questo è un decreto semplicemente attuativo che sicuramente non caduca di potere di efficacia le precedenti leggi, quindi la legge 225 del 92 e la legge 883 del 78. Questo è una ricostruzione. Che cosa prevedevano queste leggi? Però ce lo ricordi, perché non siamo tutti, diciamo così, freschi di studi giurisprudenziali. No, queste leggi prevedevano che comunque anche le regioni, sì, allo stesso livello, per la verità, dei sindaci, perché erano messi sullo stesso piano, soprattutto la legge 883 del 78, avevano potere di poter istituire comunque una zona rossa in assenza di intervento da parte del governo. Per cui noi semplicemente abbiamo, nelle nostre denunce, riportato il dettato delle varie leggi e direttive che si sono succedute soprattutto nel corso del mese di marzo di quest'anno, rilevando all'autorità giudiziaria che comunque gli estremi per una zona rossa c'erano, sia da una parte che dall'altra. Chiaro che anche in questa situazione c'è stato anche l'intervento, che è stato pubblico e quindi è documentale, del presidente di Confindustria, da cui risultava che in quel periodo in cui avrebbe dovuto essere istituita la zona rossa, nessuno degli industriali voleva l'istituzione di questa zona rossa. Per cui di sicuro la questione è molto complessa e abbraccia veramente più ambiti. Questo sarà il compito poi dell'autorità giudiziaria. Sì, naturalmente poi ci sono state, per esempio per quanto riguarda l'industriale, è stato detto che in quella zona si facevano delle produzioni fondamentali per le bombole, per l'ossigeno per esempio, quindi è stato usato questo argomento, così come il rimpallo, dicevamo prima, di responsabilità tra il governo e le regioni, si sono, diciamo, reciprocamente attribuite motivazioni in base alle quali non è stata fatta la zona rossa. Il governo dice ha agito, questo lo ricordo, a favore, diciamo, degli ascoltatori, lei lo sa benissimo, 4-5 giorni più tardi istituendo zona rossa tutta la Lombardia, la regione invece zona arancione, giusto che è diverso la zona rossa, ma fu comunque, diciamo, una forte limitazione dei diciamo della possibilità di muoversi, mentre per quanto riguarda le regioni c'era da registrare la dichiarazione di ieri il presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini, che ha detto: noi la zona rossa l'abbiamo decisa da soli in una notte, poi abbiamo informato il governo, e questo avveniva a medicina. Le voglio chiedere però anche insomma, dal punto di vista suo personale, se c'è qualche storia, qualche denuncia particolarmente che l'ha toccata particolarmente, qualche storia particolarmente forte che davvero merita una risposta. Beh, cioè, a parte la mia del mio papà, ma c'è una denuncia in particolare fatta da due fratelli che nell'arco di un paio di giorni si sono visti portare via il papà e poi la mamma senza alcuna spiegazione. Per cui ci sono persone che sono morte in RSA, a seguito poi di quella delibera di Regione Lombardia che prevedeva che i pazienti Covid potessero essere ricoverati, ospitati nelle RSA, persone che comunque stavano bene, ospiti che stavano bene e che poi si sono ammalati e in un paio di giorni, tre al massimo, poi non ci sono più stati. Per cui queste storie sono emblematiche di quello che è successo qui, è emblematiche perché rappresentano anche il senso di solitudine, di abbandono e soprattutto una richiesta di spiegazione di quello che è successo. Io la ringrazio, Consuelo Locati, grazie per essere stata con noi, buon lavoro. Grazie mille, grazie a voi. Uno degli avvocati che assiste il comitato. Noi denunceremo che proprio in queste stesse ore, in questi stessi giorni in cui i magistrati di Bergamo stanno sentendo le massime autorità dello Stato nel filone dell'inchiesta che riguarda la mancata istituzione delle zone rosse, perché poi ci sono tutti gli altri filoni d'inchiesta che non riguardano le massime autorità dello Stato, ma insomma in questo stesso momento loro stanno depositando e sono già state depositate una cinquantina di denunce. Adesso invece apriamo una finestra in un'altra direzione e parliamo però sempre di emergenza coronavirus e del suo impatto sul turismo, soprattutto in chiave europea. Se ne occupa Anna Marino nell'Euroreportage in onda domani mattina alle 8:15 dal titolo Oltre il Covid, il rilancio del turismo sostenibile in Europa. Sentiamo un'anticipazione. Non si viaggia, l'anno prossimo molto probabilmente sì, ma quest'anno siamo fermi. Ma visiteresti delle città europee in questo momento? Come ho sempre fatto negli anni. È un rischio andare in Europa come rimanere in Italia. Quest'estate dove decide di farle? In Italia. Io ho in mente la Spagna, dove abita anche mia sorella, ha anche lei bisogno di ripartire secondo me, quindi se ci si aiuta è molto più bello secondo me, ecco. Il turismo sostenibile vuole dire ora anche sicurezza e attenzione alle precauzioni, ma soprattutto si tratta di un cambiamento netto di abitudini degli europei che cercano non solo le mete conosciute, ma anche le piccole località. E proprio con questi obiettivi l'Unione Europea finanzia il turismo sostenibile. Così spiega Luca Jaillet, presidente del CESE, Comitato Economico Sociale Europeo. La sostenibilità della politica turistica d'Europa significa una linea generale sulla quale l'Europa sta lavorando da tempo, su un mercato che è importantissimo per l'economia europea, perché prima della pandemia i dati ci dicono che l'economia del turismo rappresenta dall'11 al 12% del PIL dell'Unione Europea, il 12% dell'occupazione e complessivamente oltre 3 milioni di imprese direttamente implicate, oltre ad un impatto estremamente significativo. Ora, intervenire su questo significava dargli più solidità economica, più sostenibilità sociale e poi sostenibilità ecologica e ambientale sul lungo termine. 13:28, facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco. 349-238-6666 per i vostri messaggi, ci trovate anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno e ripartiremo, come anticipato, da un sondaggio per Radio 24 di YouGov, un panel internazionale. Gli italiani risultano tra i più ottimisti sulla possibilità di chiudere definitivamente la pagina dell'emergenza Covid e poi anche che cosa tra le abitudini che sono cambiate in questo periodo siamo disposti o abbiamo proprio voglia di portarci nella fase 3 o 4, chiamatela come vi pare, dallo smart working all'uso delle biciclette, per esempio. A tra poco. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi, zone rosse, IPM di Bergamo a Roma per ascoltare Conte, Speranza e Lamorgese. Fase 3, da lunedì aprono cinema, teatri e centri estivi, riapre il Terminal 1 di Malpensa, orari estivi per Trenitalia. E gli italiani sono tra i più ottimisti sulla possibilità di superare l'emergenza Covid, qualche abitudine cambierà sia allo smart working e alle bici, lo rivela un sondaggio di YouGov. 7 arresti a Roma, presunti terroristi di una cellula anarco-insurrezionalista. Torna anche il calcio con la semifinale di Coppa Italia Juve-Milan, si interrompe il digiuno in campo stasera alle 21. Eccoci qua di nuovo in diretta, cari ascoltatori, con Effetto Giorno. I vostri messaggi al 349-238-6666, anche dalla pagina Facebook di Effetto Giorno, dove siamo in diretta streaming. C'è un messaggio di un ascoltatore che dice: vi prego, non diamo troppo spazio a questi avvocati, a rivisti che cercano popolarità. Tutti bravi l'indomani, perché non erano a protestare quei giorni per chiudere tutto? La spiegazione dei morti per il Covid poteva andare meglio, ma poteva andare anche peggio. E vedo che è una modalità condivisa anche da altri. Un altro ascoltatore scrive: gli avvocati ci sguazzano come sempre. A parte questa espressione, mi sembra veramente brutta rispetto a una cosa come questa. Cioè, vi prego anche di ragionare mettendovi, non dico i panni di chi ha perso un parente con il Covid, ma almeno cercare di capirlo, di chi aveva un parente in una RSA dove magari sono stati fatti arrivare dei pazienti Covid, cosa che si poteva evitare, così come altre cose si potevano evitare. Poi che ci sia stato, come alcuni dicono, uno tsunami, una bomba nucleare, che non è stata una bomba nucleare, ma insomma una pandemia che nessuno poteva prevedere, questo è ovvio, anche se si torna alle responsabilità. Il piano pandemico, ci sono paesi che ce l'avevano, come la Germania, paesi che si sono organizzati subito, regioni come il Veneto che hanno reagito tempestivamente, altri paesi che non hanno reagito così tempestivamente, che non avevamo un piano pandemico. Quindi non sono gli avvocati che ci sguazzano, scusate, sono responsabilità che vanno accertate. Allora, credo che sia il momento di Alberto Orioli, sì. Il punto di Alberto Orioli. Dopo gli arresti domiciliari del lockdown, non è realistico immaginare che questa sarà un'estate diversa. Di lavoro, innanzitutto, ed è quasi un augurio dati i tempi. Le imprese stanno cercando di tenere aperte le fabbriche anche in agosto, almeno quelle che hanno ricevuto i nuovi ordinativi. Non c'è tempo da perdere, la ripartenza dipende anche dalla velocità di riattivazione degli impianti a pieno regime. Del resto, circa la metà degli italiani ha già fatto sapere che non andrà in vacanza. Solo poco più del 5% ha già prenotato i luoghi per le proprie ferie. Si apre una stagione per nuovi accordi sindacali, dove potrà essere attivata una nuova fantasia negoziale, e ciò non significherà rinunciare alle vacanze. Dovremo imparare a scaglionarle, un po' come fanno da anni in altri paesi. Non ci sarà l'anomalia agostana dell'Italia chiusa per ferie, quella che aveva fatto inorridire Sergio Marchionne quando si chiese in modo retorico: in ferie da cosa? Ora ci vuole il riscatto dell'Italia riaperta per orgoglio. E allora, ecco noi, ben ritrovata Francesca Soldi di YouGov, ciao. Buongiorno a voi. Buongiorno Francesca. YouGov, società internazionale di analisi e di sondaggi appunto internazionali, che ha testato e sta testando in tutto questo periodo le opinioni appunto non solo degli italiani ma anche in altri paesi in tutto il mondo sull'emergenza Covid. Per prima cosa ti voglio chiedere, la prima domanda riguarda il ritorno alla normalità, no? Adesso siamo tra la fase 2 e la fase 3, fra un po' sarà la fase 4, insomma, come gli italiani stanno gestendo questo aspetto, Francesca? Allora, sì, abbiamo intervistato gli italiani appunto per vedere il succedersi delle diverse fasi, e diciamo che si può parlare di un graduale ritorno alla normalità, nel senso che subito dopo la fine della fase di lockdown l'82% degli italiani ammetteva che sarebbe uscito di casa anche per motivi non necessari. Fra questi, ad esempio, andare a trovare i propri congiunti, il 34%, andare a fare banalmente una passeggiata, sempre il 34%, oppure fare sport, il 14%. Però allo stesso tempo la maggior parte degli italiani affermava di aver ripreso a uscire di casa con cautela, in particolare con molta cautela il 58%. Questo soprattutto magari a fronte di tutta una serie di accorgimenti presi di propria spontanea volontà, quindi non solo il fatto di mantenere le distanze di sicurezza o indossare la mascherina, come in realtà era un po' imposto, però abbiamo visto che alcuni adottavano proprio delle misure un po' loro, quindi il 66% ad esempio dichiarava che si sarebbe lavato le mani più spesso. Il 63% comunque non sarebbe uscito di casa se non in caso di necessità, e ad esempio il 60% avrebbe cercato di evitare i mezzi pubblici. Ecco, quindi una grande prudenza insieme a una voglia di tornare alla normalità. Che l'altro punto di questa fase 1 e delle abitudini del lockdown, quali aspetti potrebbero, diciamo, avere un impatto sulla nostra vita futura? Comincerei dal tema molto discusso dello smart working. Cosa avete testato? Allora, esatto, rispetto allo smart working ci siamo concentrati ovviamente sulla quella popolazione di italiani che era dipendente e poteva lavorare da casa, perché le aziende poteva fare un lavoro anche da casa, e di questi abbiamo visto che l'87% quindi ha lavorato da casa per tutto il periodo del lockdown. Mm-hmm. Questa percentuale si è poi abbassata nelle fasi successive, nel senso che adesso abbiamo il 57% che lo sta facendo tutti i giorni e il 22% solo qualche giornata, qualche giorno a settimana. E per il futuro? Per il futuro, allora, le risposte rispetto a quello che gli italiani vorrebbero, le risposte sono variegate, quindi serve una certa flessibilità da parte del datore di lavoro, nel senso che il 33% lavorerebbe in ufficio utilizzando lo smart working regolarmente, il 24% lavorerebbe in ufficio però utilizzando lo smart working solo occasionalmente, mm-hmm. e poi abbiamo il 19% che lavorerebbe prevalentemente in smart working utilizzando l'ufficio solo occasionalmente. Quindi comunque, insomma, sì, una certa propensione allo smart working, però in diverse modalità, e solo il 15% lavorerebbe in ufficio tutti i giorni senza la possibilità. Da questa situazione si esce con una minoranza nettissima di italiani che ha proprio voglia di tornare, non a lavorare, ma a tornare in modalità ufficio. In ufficio. Un'altra cosa di cui si è molto parlato è un po' il ripensamento della mobilità. Parlavi prima della questione anche del tornare sui mezzi pubblici, l'alternativa ai mezzi pubblici affollati sono i mezzi privati, la paura è sempre quella del traffico, si è parlato della bicicletta come, almeno per le città dove tutto è raggiungibile nel giro di pochi chilometri, pochi minuti, come possibile alternativa. Qui che cosa avete riscontrato come orientamento degli italiani? Allora, siamo partiti un po' da quello che facevano prima, nel senso che abbiamo visto che comunque solo il 10% degli italiani affermava di utilizzare la bicicletta tutti i giorni in una fase, diciamo così, di normalità, comunque pre-pandemia. E fra i motivi principali del non utilizzo, quindi fra coloro che non utilizzavano, abbiamo visto che effettivamente le motivazioni riguardavano ad esempio le strade poco sicure per i ciclisti, per il 29%, la mancanza di piste ciclabili, il 26%, le strade in cattive condizioni. Quindi comunque sono tutti fattori che effettivamente potrebbero essere superati nel caso in cui le municipalità si attivassero in questo senso. E d'altra parte gli italiani pensano che nel proprio futuro, almeno per il 23% di essi, ci sarebbe la possibilità di utilizzare la bici per recarsi sul luogo di lavoro, di studio, anche tutti i giorni. Quindi da un 10% a un 23% potrebbe essere quasi un raddoppio, perché in Italia si sa la bici non è molto utilizzata quotidianamente, e quindi l'orientamento c'è. Andrei ad un altro punto che ho, diciamo, anticipato nei titoli, perché personalmente mi ha anche molto colpito. Qui il panel si allarga a livello internazionale, soprattutto per quanto riguarda l'Europa e la percezione, diciamo, dei cittadini rispetto al proprio paese e, diciamo, la possibilità effettivamente di superare questa emergenza. Francesca. Esatto, abbiamo chiesto ai cittadini di 25 paesi se pensano che si stia andando o meno nella direzione giusta per superare la crisi, ed è interessante vedere che ai primi posti, quindi i cittadini più ottimistici, sono tutti i paesi asiatici, in particolare la Cina, dove l'89% delle persone ritiene di essere sulla giusta strada per la ripresa e solo il 2% pensa che il peggio debba ancora avvenire. E nel blocco invece dei paesi europei troviamo l'Italia come paese più ottimista, quindi con l'83% dei cittadini che crede comunque di essersi lasciato alle spalle il peggio della crisi e solo il 7% che pensa che questa dovrà ancora arrivare. Immagino lo scetticismo di alcuni ascoltatori che diranno, vedete, noi abbiamo l'ottimismo ma siamo i più disorganizzati tutti, non credo che sia così, l'ottimismo ce l'abbiamo, teniamocelo perché comunque è una risorsa importante per il futuro. Francesca Soldi di YouGov, grazie mille come sempre per essere stata con noi e buon lavoro, trovate tutti i risultati più nel dettaglio sul sito di YouGov. Ah, finalmente, caro Carlo Genta. Ciao Alessio. Adesso possiamo riprendere i nostri appuntamenti, dico quotidiani, ma insomma, così insomma, un po' più frequenti. Permetteteci di essere felici, no? Sì. Oggi si celebra il ritorno in sì, campo. Una specie di 25 aprile dello sport, non solo del calcio, sì. Che va oltre il calcio, il Milan, la Juventus, che stasera saranno in campo a Torino, ovviamente stadio vuoto, diretta televisiva Rai alle 21, immagino ascolti da finale dei mondiali o giù di lì. E insomma si torna a parlare di pallone giocato dopo tanti mesi di politica sportiva che sono stati terribili per molti aspetti, interessanti per altri, perché i dibattiti che ci sono stati in questo periodo per arrivare alla giornata di oggi sono stati estenuanti, interminabili, ma ripeto anche interessanti. Ecco, per una volta anche l'appuntamento di tutti i convocati torna a partire dalle 14 a concentrarsi sull'attesa per il calcio vero. Grazie, certo. Carlo, appuntamento più tardi. Ciao. Ci fermiamo tra poco con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.